Il cinema su Radio Onda Rossa, Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e spesso anche mezz'ora prima, cioè alle 13.30. In diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce Trasmissioni Visionari. Poi c'è la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il primo ospite di questa settimana è Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per parlare con lui delle novità di questo maggio. Andrea, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e tutti. Ciao. È sempre un piacere risentirci quando riusciamo. Sì, era un po' di tempo, era da febbraio e quindi qualcosa, sicuramente sono successe un po' di cose, ci racconterai anche quello che c'è da vedere per questo mese. Sì, abbiamo avuto diverse novità sia sulla sezione film e documentari del catalogo, che rimane la sezione principale della nostra piattaforma, ma anche sulle altre sezioni come l'editoria e la musica e anche delle novità importanti che adesso vi racconterò. E partiamo dai film. E abbiamo avuto diverse nuovi arrivi sia nella funzione di Teca Digitale, quindi come archivio anche di opere storiche magari appunto uscite meno di recente, ma soprattutto abbiamo due grosse uscite proprio di questi giorni. Una, la più importante, che è già uscita, è Binxet, che immagino probabilmente avete avuto già modo di chiacchierare o di discutere, sarà anche a Roma a giugno la proiezione. Binxet è un lavoro preziosissimo che realizzato da Luigi Dalife, un autore che è già sul nostro catalogo da tempo con altre sue opere, ed è un lavoro interamente girato nelle zone del Kurdistan, soprattutto nelle zone che ahimè conosciamo tutti molto bene per ciò che sta succedendo in questi anni e per in qualche maniera il gioco sul tavolo che si sta verificando. Sappiamo bene quanto è delicata la situazione e cosa si sta giocando in questo momento in quelle zone. Sappiamo anche bene l'importanza che tutta una serie di esperienze di resistenza del popolo curdo che ci sono in questo momento vanno ben oltre le dinamiche locali e territoriali. Sotto il confine, Binxet appunto è un'opera che ci permette di riattualizzare in maniera molto fresca, e il film è stato praticamente chiuso da pochi mesi, ciò che sta succedendo lì attraverso testimonianze, attraverso la raccolta di una serie di storie, di informazioni che ci permettono di accedere soprattutto in maniera più chiara a ciò che sta succedendo in Rojava in questo momento e che sappiamo bene essere sempre molto difficile da reperire sui media mainstream. Sì. Tra l'altro la cosa molto bella è che Elio Germano ha aiutato l'opera e l'autore ed ha prestato la sua voce come storyteller, come voce narrante dell'opera. Il film è già on demand con la nostra piattaforma e anche in organizzazione di proiezioni pubbliche su Movie Day. Sta andando molto bene, c'è stata la prima nazionale a Torino la settimana scorsa e tutte le città in cui sta andando sta facendo sold out. Questo lo dico non tanto per farci l'elogio da soli e fare l'elogio dell'autore, ma soprattutto perché evidentemente è la dimostrazione del fatto che c'è molta fame in questo momento di sapere cosa sta succedendo in Rojava e sappiamo tutti la partita che si sta giocando. Sì. L'altro film che uscirà questo sabato, a cui teniamo tantissimo anche perché siamo anche in coproduzione e anche perché con i Fritas di Scampia di Napoli abbiamo legato in questi anni una fortissima relazione anche come OpenDDB, è Scampia Felix. Scampia Felix è un film che, partendo dalla storia del famoso carnevale popolare di Scampia, che quest'anno ha compiuto 35 anni, racconta la storia del Gridas, quindi del gruppo di Felice Pignataro, nato ormai appunto quasi 40 anni fa, e di tutta quella vastissima rete di realtà, associazioni, esperienze culturali che a Scampia in questi anni hanno fatto e prodotto molto, sempre rigorosamente dal basso, e per noi è un'opera molto importante che ci tenevamo tantissimo ad avere come nel sistema on demand. soprattutto perché ci dà la possibilità di conoscere un'altra Scampia molto lontana da quella che troppo spesso e anche in maniera forse delle volte troppo esagerata è stata dipinta dai media mainstream. Abbiamo anche però altre importantissime novità sugli altri fronti, sia sul fronte delle nuove editorie indipendenti sia su quello musicale, perché abbiamo ricevuto da Beberta Edizioni, che è una casa editrice con cui collaboriamo da molto tempo, il libro Sopravvivere a Sarajevo, che è la traduzione italiana dell'opera The Art of Survival, un'opera che uscì subito dopo l'assedio e che raccontava non solo attraverso le testimonianze ma anche attraverso le foto e le opere artistiche come la società civile sarajevese reagì durante l'assedio, con il modo che tipicamente la contraddistingue, quindi senza mai perdere mai l'ironia. E questo libro è molto importante perché fino ad oggi esisteva una traduzione italiana di quest'opera. Quindi siamo molto contenti di avere la possibilità di aiutare Beberta Edizioni nella diffusione di questo materiale che è estremamente prezioso e che, visto i tempi che corrono, ci permette di tenere sempre in maniera con una visione attualizzata ciò che è stata per esempio l'assedio di Sarajevo, che è un altro degli altri casi dove si rischia di cadere troppo nello stereotipo o nella semplice celebrazione. Sì. Ultimissima novità che vi segnalo e poi giuro che smetto, ma è molto importante. Sì. Noi abbiamo finalmente avviato una collaborazione che vedrà nei prossimi mesi uno sviluppo più corposo con il progetto Terroni Uniti, che immagino abbiate sentito. Terroni Uniti è un progetto che è nato ad aprile di quest'anno, dove circa 30 musicisti napoletani, compresi 99 Posse, Bennato e tutta un'altra serie di esperienze molto interessanti della scena napoletana, si unirono all'epoca pubblicando un singolo che si chiamava Gente do Sud contro la visita di Salvini a Napoli. Ci siamo incontrati con i ragazzi, c'è stato subito diciamo del feeling, anche perché comunque alcuni di questi artisti già eravamo in contatto con loro per progetti precedenti di collaborazione, e assieme a loro abbiamo lanciato il singolo sulla piattaforma il 22 aprile in concomitanza con il interessantissimo e piacevole esperimento del concerto a Pontida, che è stato sicuramente un'ottima idea, un'ottima mossa anche dal punto di vista del messaggio che si voleva passare. Ma la cosa molto bella è che il progetto Terroni Uniti sta continuando ad evolversi, sta continuando ad allargarsi ad altri autori, e ci saranno delle novità molto belle nei prossimi mesi, sempre relative al percorso artistico di questo, diciamo a tutti gli effetti, collettivo di musicisti. Bene, in chiusura, tutti gli estremi di OpenDDB. Certamente potete trovare tutto questo e tanto altro ancora sulla nostra piattaforma digitale www.opendb.it. La piattaforma è multilingua da alcuni mesi, quindi anche dall'estero e anche per chi appunto non ha la possibilità di usufruire il materiale in italiano, c'è la disponibilità di usufruirlo anche in lingua inglese e in lingua francese. Benissimo. Paco, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, sulle novità di maggio. Eccoci con Alessandro Aronadio, regista del film Orecchie, in uscita in sala oggi giovedì 18 maggio. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ci eravamo sentiti in autunno, poi come sempre ci siamo promessi di risentirci in occasione dell'uscita in sala, così è stato. Allora, raccontiamo intanto a chi ci ascolta qual è la storia, cosa si racconta in Orecchie. In Orecchie è la storia di un uomo che si sveglia una mattina con un fischio alle orecchie, appunto, e un post-it su un frigo che dice che è morto il suo amico Luigi, e che quella sera c'è stato il funerale. Il problema è che lui non si ricorda assolutamente chi sia questo fantomatico Luigi, e inizierà una tragicomica giornata tra vari personaggi, vari incontri alla ricerca della identità di questo Luigi e anche dell'origine e della cura possibile di questo fischio alle orecchie. Senti, come è nato tutto? È nato dalla voglia di fare una commedia un po' diversa.

Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, bella scelta questo The Dinner. Per chi è all'ascolto, raccontacelo un po'. Allora, The Dinner è un film tratto dal romanzo La Cena di Kok, di un olandese, che è stato un successo editoriale abbastanza importante in Italia e nel resto del mondo, e ha avuto già una trasposizione, tra l'altro italiana, del film, e noi abbiamo preso e distribuiremo per l'Italia, diciamo, la versione americana con un grandissimo cast di Richard Gere, Tip Coogan, Laura Linney, Rebecca Hall, ed è fondamentalmente la storia di un incontro a cena tra due coppie, quindi i due fratelli e le loro rispettive mogli, che devono incontrarsi per trovare una soluzione ad un evento, diciamo, abbastanza drammatico, che è accaduto a causa dei loro figli. Quindi tutto il film è su una introspezione psicologica, diciamo, e thriller di questo caso avvenuto e il modo di risolverlo. Quindi di fatto è un film drammatico che però ha una grossissima venatura ed impostazione da film thriller. Oh, grande interpretazione, una bella messa in scena in stile molto teatrale e sofisticata, ma soprattutto una grande sceneggiatura. Ecco, e dell'opera più in generale di Oren Moverman, cosa ci dice Antonio? Guarda, io ho letto il romanzo, quindi, diciamo, andavo già abbastanza tranquillo sulla storia, non avevo visto la versione italiana dei nostri ragazzi, e ho letto la sceneggiatura di Overman, che mi è piaciuta molto, e il film l'ho trovato bello e all'altezza della sceneggiatura che avevo letto, e mi sembra, insomma, che Overman abbia fatto un lavoro molto attento e molto sapiente di anche proprio di direzione degli attori, perché era davvero molto facile l'overacting, cioè che questi attori andassero proprio oltre. Invece la drammaticità è rispettata anche con molta asciuttezza nelle interpretazioni, quindi a me ha fatto un ottimo lavoro di regia. Senti, è il suo primo lavoro che vediamo qui in Italia? Guarda, di grande distribuzione, credo proprio di sì. Sì. Senti, come lo avete incontrato il film e poi la decisione di distribuirlo? Quali sono le modalità? Allora, noi l'abbiamo incontrato o meglio, avevamo già letto il romanzo in tempi non sospetti. Sì. Dopodiché a Berlino dello scorso anno lo abbiamo comprato, proprio dopo aver letto la sceneggiatura, e lo abbiamo visto a Berlino di quest'anno, perché era in concorso, e la distribuzione del film, dunque gli Stati Uniti sono usciti il 5 maggio, quindi prima di quella data noi non saremmo potuti uscire, perché avevamo appunto un divieto, no, di rispettare l'uscita americana. Dopodiché abbiamo deciso, insomma, di metterlo nella data di fine maggio, come una sorta di offerta, se vuoi, un po' diversa rispetto agli action che ci sono in questi giorni e ai film che usciranno poi dal Festival di Cannes. La distribuzione è una distribuzione allargata, perché usciamo con 210 copie, quindi ci crediamo molto nel film. Senti, dato che hai avuto anche modo di leggere il libro di riferimento, sì, volevo chiederti quali sono gli elementi che più ti avevano convinto del libro e poi di conseguenza nel film. Guarda, quello che io ho adorato nel libro è stata la sciocchezza psicologica di tutti, sì, i personaggi, e soprattutto questo colpo di scena interessantissimo non voglio svelare, certo, per chi non ha visto magari il film italiano, ma insomma quello che fanno questi ragazzi è davvero molto grave, e la totale assenza di responsabilità con la quale fanno questa cosa è terrificante. Ecco, il modo in cui viene trattato, discusso, raccontato è davvero molto interessante, sia nel libro, sia nella sceneggiatura che nel film. Oh, stavo vedendo di Moverman, avevamo avuto modo di vedere in sala una sua sceneggiatura, Io non sono qui, I'm not there, di Todd Hines, ecco dov'era, è vero, 2007, qualche anno fa, insomma. Bene, Antonio, allora... Non una sua regia. Sì, era sua sceneggiatura. Ok, esatto. Senti, in quante sale sarà in Italia? 210. Beh, una bella uscita. Una bella uscita, sì. I riferimenti Videa sul web... Pronto? Pronto? Sì, dicevo. Allora, diamo come riferimenti la pagina Facebook e il sito internet di Videa. Esatto. Ok, benissimo. Sì. Trovate tutti i locali in cui usciremo, già pubblicati. Bene, Antonio, un abbraccio, a risentirci presto. Un saluto da Cannes. Ciao. Antonio Adinolfi di Videa sulla distribuzione del film The Dinner di Oren Movermann in uscita in sala oggi giovedì 18 maggio. Eccoci con Fabio Leli, regista del documentario Vivere alla Grande, che sarà programmato oggi al Nuovo Cinema Palazzo, oggi giovedì 18 maggio. Fabio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie a voi. Allora, raccontaci un po' la storia di questo documentario, di cosa si tratta? Allora, questo possiamo dire che è un documentario di inchiesta sul fenomeno del gioco d'azzardo legale, è importante, quindi nessuna bisca, nessuna cosa diciamo fuori dalla legalità. Parliamo di gioco d'azzardo di Stato, quindi la slot machine, vinci, lotto e scommesse, insomma chi più ne ha più ne metta. E l'inchiesta spazia molto, diciamo, sia dal punto di vista politico, ovviamente essendo tutto legale, quindi c'è lo Stato di mezzo, e anche dal punto di vista economico, sociale, culturale, mediatico, poi ovviamente c'è tutta la pubblicità, non tralasciamo però anche le storie, diciamo, poi delle persone, insomma, dei protagonisti del film, le storie di chi poi ci cade dentro, vite, diciamo, rovinate dal gioco d'azzardo. Abbiamo due storie principali che trainano poi tutta l'inchiesta, storie di persone. Diciamo un uomo di mezza età che ha perso praticamente tutto, e l'altra è una famiglia che invece ha perso il figlio, ecco. Tra l'altro, stavo pensando alla pubblicità a cui facevi riferimento. In ogni pubblicità è segnalato che il gioco può causare dipendenza, insomma, quindi penso che siano stati obbligati a mettere questa dicitura, ma comunque il risultato non cambia. Sì, quello diciamo è il contentino che hanno dato l'artismo che da fare per cercare almeno di limitare i danni, però è veramente ridicolo, perché diciamo che è un cane che si morde la coda, nel senso che ti faccio dissanguare dicendoti che questa cosa può farti dissanguare, insomma è curioso che lo Stato, insomma, si spenda poi molto per far sì che questa cosa accada, insomma è un sistema ben calibrato, ecco. Tra l'altro è una delle grandi fonti di guadagno dello Stato. Sì, assolutamente, ma questo è contraddittorio anche questo, perché noi nel 2016, mi metto anch'io, anche se non ho mai comprato nulla, perché poi di questa cosa paga anche chi non gioca mai, perché l'Italia, gli italiani l'anno scorso hanno speso 96 miliardi di euro in gioco d'azzardo. Quindi calcolando anche chi non ci gioca, se vuoi fare un paragone, hanno speso l'anno scorso per mangiare 130 miliardi, quindi diciamo che spendono quasi quanto spendono per mangiare, si spende quasi la stessa cifra, e questo è paradossale, perché ovviamente se non mangi muori, quindi sta diventando un bisogno quasi primario, e questo togliendo poi una buona fetta di soldi all'economia reale, perché il gioco d'azzardo non produce nulla, non compri un bene concreto, ecco, compri speranza, compri il niente, quei soldi vengono tolti dalla frutta, dalla verdura, dal pane, insomma da tante cose che magari la gente non compra più per permettersi di giocare. Questo è assurdo, diciamo. Senti, dove e come è nata l'esigenza di questo documentario? Beh, l'esigenza è nata proprio da tutto questo, insomma, camminare per la strada. Io per esempio adesso sono a Roma, stasera abbiamo la proiezione del film, avevo lasciato Roma qualche anno fa in condizioni veramente pietose e la ritrovo ancora peggio. Adesso ci sono addirittura dei casinò, dei mega centri in città, in pieno centro a Roma, palazzine intere dedicate al gioco d'azzardo. E prima c'erano 4 casinò in Italia, adesso ce li abbiamo nelle città praticamente ovunque. Senza contare poi i bar, le tabaccherie, le piccole sale slot, i centri, le ricevitorie, è un'invasione e nasce da questo, insomma, cioè non avere più spazi senza il gioco d'azzardo, da avere solo 4 casinò ad averlo poi praticamente anche in tasca, insomma è una malattia sociale. Senti, una malattia sociale che non interessa solo il nostro paese, è un po' diffusa ovunque. Secondo te a quali meccanismi psicologici risponde? Senti, sì, hai ragione dicendo che è una cosa, diciamo, un fenomeno abbastanza esteso anche fuori dai confini nostri, però non in questo modo. Cioè, se possiamo fare un esempio, un semplice paragone, la media di slot machine, la media di slot machine in Europa per stato, quindi è una media, quindi di più di meno, la media è di 40.000 per nazione, noi ne abbiamo 420.000 di slot machine solo in Italia, quindi è vero che è un fenomeno, diciamo, globale, ma l'Italia, diciamo, fa la voce grossa in questo fenomeno qui. Dal punto di vista psicologico ormai è talmente radicato, no? nella mentalità, nelle azioni quotidiane. Pensiamo al gratta e vinci, no? Caffè gratta e vinci ormai è più diffuso di caffè brioche, quindi è entrato nell'azione quotidiana. Lo Stato ha voluto proprio inculcare nell'italiano medio questa naturalezza del gioco. Prima c'era la schedina la domenica oppure il lotto una volta a settimana, adesso ci sono giochi in cui tu puoi scommettere ogni 5 minuti, c'è un'estrazione del 10 lotto e avviene ogni 5 minuti, oppure il gratta e vinci online, e la quotidianità è proprio questo, il loro segreto è quello in cui puntano. Loro parlano di libertà di gioco, no? Per dare più libertà di giocare. Questo non provoca libertà di giocare, ma provoca dipendenza, che sì. E poi è quello che vogliono loro per fare più soldi. Ecco. Certo. Ecco Fabio, vista questa peculiarità tutta italiana, date le cifre che ci dicevi, le radici allora dove vanno trovate rispetto a proprio a questa peculiarità italiana? Sì, sono radici che si collegano a scelte politiche scellerate, ma non solo scelte politiche. Sì. Cioè, nel senso che sono collusioni della politica con le lobby del gioco, sì. Con le lobby, sì. Che gestiscono le slot e tutto il gioco d'azzardo, non sono scelte. C'è la criminalità, la politica che si è sposata alla criminalità, e poi chi c'è in queste aziende? A capo di queste aziende ci sono clan mafiosi che sono stati anche indagati. Hanno avuto anche la geniale idea, ovviamente per un periodo, di scollegare le macchine, quindi le macchine erano A, truccate, B, non pagavano le tasse. Questo accade nel 2012, nel film ovviamente tutto quello che sto dicendo c'è, quindi bisogna venire a vederlo per capire tutto. Sì. Nel 2012 la Guardia di Finanza scoprì questa cosa qui, ci fu una maxi multa per queste aziende qui di 98 miliardi di euro. Stasera avremo Umberto Rapetto, che è l'ex colonnello della finanza, che praticamente è colui che diresse tutta questa operazione. Quella multa di 98 miliardi fu abbassata a 700 milioni di euro, e questi 700 milioni di euro non sono mai stati pagati da queste aziende. Lo Stato vanta un credito, quindi, di erariale, di cifre astronomiche che non ha voluto, lo Stato non ha voluto questi soldi e il colonnello Rapetto di ripresa è stato fatto fuori dalla finanza. Quindi è qui, queste sono le radici, certo, di questa, certo, di questa situazione. Il governo, lo Stato, che ha venduto per un piatto di lenticchie la salute e poi la fine dei cittadini per favorire queste grosse aziende collegate alla mafia. È scandaloso, noi lo racconteremo nel dettaglio, ecco. Senti, ecco, che tipo di diffusione pubblica stai percorrendo per il tuo lavoro? Beh, diciamo che i risultati sono più rosei delle aspettative, insomma. Il film è uscito ad agosto 2015, sono quasi 2 anni di vita. Per un film documentario avere 2 anni di vita ed essere poi in giro, è un documentario poi come il nostro, c'è l'inchiesta, senza una produzione, senza una distribuzione, fatto col crowdfunding. Siamo andati a Locarno, abbiamo avuto anche prima mondiale noi al Festival di Locarno, che per noi è stato, diciamo, incredibile, insomma, uno dei primi 4 festival al mondo, paragonabile solo a Cannes, a Berlino, a Venezia. E di lì è, insomma, è esploso il nostro film, è girato praticamente tutta Italia, siamo stati anche all'estero, in qualche zona anche all'estero, addirittura in Iran, è arrivato addirittura in Iran il film. Però paradossalmente, ecco, questo può essere collegato al discorso che facevamo prima, nel senso che nonostante le 70 località toccate in tutta Italia, all'estero, eccetera, festival importanti, a Roma non eravamo ancora stati, cioè il film non era ancora stato proiettato a Roma. Questa sera è la prima volta che siamo a Roma, perché ovviamente, diciamo, Roma è un po' il centro politico e quindi sì, diciamo, forse non ci amano molto, ecco, insomma. Sì. Beh, e poi in un luogo niente affatto casuale, perché insomma il Cinema Palazzo doveva essere destinato ad un casinò, e questo film, questo documentario, insomma, va nel luogo giusto. Sì, diciamo che non è casuale, forse era destino. Sono molto contento comunque che siamo ospitati dal nuovo Cinema Palazzo, perché mi ricordo bene, io vivevo a Roma proprio in quel periodo lì, mi ricordo bene quello che successe, insomma, doveva essere destinato all'ennesimo casino di Roma, che è strapieno, è stracolma, questo dimostra anche però che il popolo ha ancora un po' di potere di incidere, questo non solo occupando, diciamo, come hanno capito, straordinaria, ribellandosi a quel destino per farlo del casinò, un posto culturale che sarebbe dovuto diventare un casinò, è qualcosa di assurdo, ma ha anche il potere di cambiare se stesso prima che le cose, come un film, diciamo. Noi non abbiamo la pretesa di cambiare le cose, perché le cose non le può cambiare purtroppo più nessuno, sì, ma possono cambiare le persone, quindi un film o l'esempio del nuovo Cinema Palazzo deve far capire che può cambiare. Siamo noi che li spendiamo quei 96 miliardi di euro in un anno, quindi la gente deve cambiare, bisogna cambiare dal punto di vista culturale. Fabio, com'è organizzata la serata? Ci racconti un po'? Allora, l'inizio dovrebbe essere per le 20:30, cioè dovrebbe per le 20:30. Crediamo ci sarà una breve ci saranno vari ospiti, avremo, come ho detto prima, l'ospite per me assolutamente prestigioso, solo per la sua presenza si dovrebbe venire stasera a sentire quello che ha da dirci, che è il colonnello Umberto Rapetto, l'ex colonnello della Guardia di Finanza. Poi ci sarà il sociologo Maurizio Fiasco, che è uno dei maggiori esperti a livello internazionale proprio di dinamiche sociali, antropologiche del tipo d'azzardo. Ci sarà anche Gabriele Mandolesi di Slot Mob, che è un movimento che combatte dal basso questo fenomeno. Poi ci vedrà il film, ne parleremo come sempre poi dopo, ci sarò ovviamente anch'io e speriamo venga tanta gente, perché veramente Roma ha bisogno di uno stimolo, insomma, di una sveglia forte, fortissima. Niente, tutto qui, ci vediamo il film, poi facciamo 2 chiacchiere con il pubblico, come sempre. Noi giriamo, ti ho detto, da 2 anni tutta Italia. Mm-hmm. Ci capita di fare proiezioni e poi di parlare con il pubblico anche fino a luna di notte. Ci sono state proiezioni che in cui mi hanno tartassato di domande, nonostante il film sia molto completo. Sì, sì. Questo dimostra che la gente, se viene toccata nel modo giusto, la reazione ce l'ha. E certo, non fatemi fare luna di notte, però ecco, spero che sì, sia tanta gente. Sì. Fabio, ci lasci anche tutti i riferimenti web del documentario? Come no, il sito web è www.viverelagrandeilfilm.it. Siamo anche su Facebook, Vivere la Grande il Film, su Twitter, insomma siamo belli ferrati sul web, anche perché il crowdfunding insomma ce lo richiedeva. Bene. Questo è un film insomma che ha bisogno del contatto con la gente, quindi dobbiamo essere presenti ovunque. Bene. Speriamo che siano presenti anche i romani stasera al Nuovo Cinema Palazzo alle 20:30. Un abbraccio Fabio e alla prossima. Anche a voi. Ciao. Anche a voi. Salve, buona giornata. Fabio Leli, regista del documentario Vivere alla Grande al Nuovo Cinema Palazzo questa sera, giovedì 18 maggio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. E sull'home page trovate anche tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, sulla colonna centrale alla voce Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Info. In collegamento con il piccolo America per parlare della riapertura del cinema Troisi, Valerio, ben ritrovato. Ciao Federico, grazie mille. Allora, ieri c'è stata questa conferenza stampa in occasione proprio della riapertura, ci siamo visti lì, raccontaci un po' com'è andata. Ieri abbiamo riaperto le porte del cinema Troisi alla città, abbiamo presentato il progetto di ristrutturazione redatto dagli architetti Salvia Dombini e Raffaella Moscaggiuri, la sala Troisi, il cinema Troisi diventerà uno spazio aperto H24, avrà la prima aula studio senza necessità di iscrizione, quindi 24 ore su 24 della città di Roma. L'operazione viene finanziata in parte da dei fondi che abbiamo messo da parte. In questi due anni di iniziativa, in cui abbiamo lavorato tutti esclusivamente come volontari, siamo riusciti a raccogliere 120.000 euro che sono stati bloccati per l'investimento necessario per l'attivazione e l'avviamento dei lavori del Troisi. Il resto dell'operazione, che ammonta a 400.000 euro, verrà finanziata al 40% dal tax credit della legge cinema e dei contributi selettivi a cui adesso presenteremo il progetto, e il restante abbiamo lanciato una raccolta fondi che dovrebbe arrivare a 120.000 euro. Se non arriverà a 120.000 euro ci adopereremo per aprire un mutuo, abbiamo già delle garanzie bancarie. Comunque, dicevo, c'è la raccolta fondi per aiutarci su www.cinematroisi.it. Senti, ci sono anche delle pastoie burocratiche che creano degli impedimenti. Esatto, ieri l'abbiamo chiamata l'inagibile legalità, perché noi appunto poi in radio, penso si sappia, gli ascoltatori della radio lo sappiano, veniamo da una storia d'occupazione, abbiamo occupato il cinema America di Trastevere e successivamente abbiamo composto un'associazione, la partita IVA, bandi, finanziamenti, contributi, tutto ciò che c'è nel mondo della legalità e dell'impresa sociale e culturale. In questo mondo però i primi a non riuscire a garantire la legalità che tanto richiedono sono le amministrazioni, in special modo Roma Capitale, che tra tutti i sindaci che abbiamo visto passare, noi abbiamo partecipato al bando con Marino, abbiamo vinto con Tronca, c'è stato concesso la custodia del bene con la Raggi, non ce n'è uno che si è accorto che questo bando era stato messo, questo immobile era stato messo a bando senza alcuna certificazione. La sala paradossalmente dal 1997 al 2013 ha esercitato senza licenza del pubblico spettacolo, di conseguenza noi ci ritroviamo una scatola nuova da cui ripartire da zero, nemmeno da tre come direbbe Massimo Troisi, per ricreare un cinema e riaprire all'interno del Troisi il cinema America dal quale eravamo stati sgomberati. Senti, per l'attività avete preso e volete prendere come modello alcuni cinema della provincia e non solo, che hanno fatto delle sale, delle comunità aperte al sociale. Esatto, abbiamo invitato infatti ieri il Postmodernissimo di Perugia, una sala stupenda, storica di Perugia, nel centro storico, che è stata riaperta da 5 ragazzi, un pochino più grandi di noi, ma con intraprendenza, una tenacia senza pari. E poi abbiamo invitato il Paola Corti del Beltrade di Milano, una bellissima sala parrocchiale gestita da due signorine, diciamo, molto simpatiche. E poi abbiamo invitato Riccardo Costantini del Cinema Zero di Pordenone e Michele Crozzola di Fondazione Stenza di Firenze. Loro sono sale in cui il pubblico non va perché c'è un film programmato, ma va perché la sala è diventata un operatore culturale vivente, uno spazio in cui potersi riunire, crescere e avviare uno scambio collettivo per la creazione di nuovi rapporti sociali. Tra l'altro Riccardo Costantini è una nostra vecchia conoscenza, lo sentiamo sempre per le rassegne del Cinema Zero di Pordenone, anche per quanto riguarda le giornate del cinema muto, sempre per quanto riguarda la città di Pordenone. Insomma, delle sale con cui siamo in contatto e che esprimono veramente un valore culturale in questo paese, nonostante poi tutte le chiusure delle monosale nelle grandi città, i multiplex che dettano anche la programmazione. Però ci sono dei casi che appunto sono virtuosi perché funzionano. Esatto, e sono riusciti soprattutto a resistere nel mondo commerciale delle sale, garantendo un'attivazione che non sia solo volta allo sdirettamento, ma anche alla creazione di servizi e di possibilità per i film che vengono programmati e che riescono a dare visibilità ad opere piccole e indipendenti. Certo, dai film in lingua originale appunto a tutto quel mondo di film che non ce la fanno poi a uscire in sala, ma perché poi di film prodotti ce ne stanno talmente tanti che solo una piccola parte ha la possibilità di aprirsi al pubblico. In questo caso questi piccoli cinema rappresentano una piccola garanzia in questo senso. Senti, però in contemporanea c'è anche la questione del cinema in piazza, perché tra pochi giorni comincia anche la 2 mesi di San Cosimato. Questo quindi rappresenta un rallentamento anche per il Troisi? No, non rappresenta, no, assolutamente. Abbiamo organizzato tutto affinché le due cose possano coesistere adesso e in futuro. Infatti l'obiettivo è quello di non smettere mai di animare la città con i nostri schermi itineranti. San Cosimato è in lavorazione, diciamo che ha riempito più San Cosimato del Troisi tra le due a livello organizzativo, perché naturalmente ci siamo dovuti concentrare in questi giorni sulla sala, però San Cosimato è salvo e sarà salvo anche il Troisi, e nessuno dei due sarà rallentato. Senti, ci puoi anticipare già qualcosa della rassegna in piazza San Cosimato? Versione originale. Versione originale, questa è una bella anticipazione. Senti, a questo punto non l'abbiamo ancora detta a nessuno, quindi è un'anteprima. Senti, ci dai tutti i riferimenti web per sia per San Cosimato, esatto, che il Troisi? Per San Cosimato devi aggiornati sulla pagina Facebook I Ragazzi del Cinema America o sul sito www.trastevericinema.it. Per quanto riguarda il sostegno al progetto per la riapertura della sala cinematografica Cinema Troisi, potete andare su www.cinematroisi.it e fare una donazione sia tramite IBAN che tramite PayPal. Un abbraccio e a presto. Ciao Federico, ciao. Il piccolo America sulla riapertura del Cinema Troisi, ieri conferenza stampa di presentazione. In collegamento con Bruno Colella, regista del film My Italy, in uscita in sala oggi giovedì 18 maggio. Bruno, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, eccoci. Allora, una strana creatura questa My Italy, ce la racconti un po'? Sì, va bene. Allora, guarda, My Italy in realtà è un film, è una commedia sull'arte contemporanea. Sì. Più precisamente, diciamo semplicemente che è una storia con una trama. La trama di partenza, sono un produttore con un suo collaboratore che girano l'Europa per cercare i fondi per fare un film difficile, ovvero sì, un film sull'arte contemporanea, con 4 artisti d'arte contemporanea reali. E nel film ci sono 4 artisti molto tra l'altro affermati, che sono Marco Stabia, americano, Christoph Bebenas, polacco, Toaster Kirchhoff danese e Hakalim cinese. Tra l'altro questa è una produzione Italia-Polonia, va bene, e Petnaschi è stato lo scenografo di Grotowski, insomma Costabi è uno dei pittori, è un pittore americano, è uno dei pittori che vende di più nel mondo. Toaster Kirchhoff è un danese visionario, filmmaker, scultore e pittore, e Hakalim è un cinese, va bene, che ha fatto installazioni, molto conosciuto anche lui. La particolarità, che la cosa che lega questi quattro artisti, è il fatto di essere degli stranieri che però vivono in Italia, anche in Italia. Ognuno di loro ha un proprio mondo nel proprio paese, ma anche una casa, chi a Roma, chi in altri posti. Quindi diciamo che è una certa Italia, alcune cose dell'Italia che a me mi divertiva raccontare, e vista attraverso gli occhi e la sensibilità di questi quattro artisti. Ecco, questo diciamo è il pretesto. E per quanto riguarda il linguaggio, il linguaggio, siamo diciamo nel cortocircuito che io amo molto, nel contrasto, ovvero sia un argomento di nicchia che l'arte contemporanea, in cui si vedono anche le opere raccontate da Achille Bonitoliva, che interpreta se stesso, però all'interno di un meccanismo assurdo, paradossale, di commedia. Sono quattro storie intrecciate, per intenderci, Bedraschi, che è un, insomma, un affermato scultore, che oltre, tra le altre cose, ha fatto la tomba di Kieslowski, il monumento della tomba di Kieslowski a Varsavia, e viene avvicinato dalla vedova di un camorrista, che in un momento in cui era per motivi, probabilmente avevano cacciato dall'Italia, era scappato e si trovava a Varsavia, aveva iniziato un percorso culturale che aveva portato il figlio cineasta a vedere questa opera nel cimitero monumentale di Varsavia, e il camorrista, quando vede quest'opera, si commuove e dice vicino al figlio: quando muore papà la vuole tale e quale. Quindi lui si trova costretto, diciamo, a realizzare quest'opera, minacciato prima con dei soldi che gli ho offerto, con delle minacce fisiche, per cui è commedia assolutamente. Toaster Kirchhoff, che è ha fatto, c'è una sua opera, un'installazione permanente all'interno della Certosa di Padula, fatta sempre, curata da Achille Bonitoliva da 14 anni, e a lui gli arriva la telefonata dell'idraulico di Sala Concilina, che è Rocco Papaleo, che praticamente l'avverte che c'è una perdita, che in realtà non è una perdita a questa sua installazione, ma è un bagno pubblico con un rumore di acqua registrata, e quindi minaccia di cambiare lui le mattonelle, e quindi parte per un viaggio verso il sud che lo immerge in questo calore, partendo da una sua dimensione abbastanza algida, piano piano fino ad arrivare a Padula, attraversa Napoli, la follia di Napoli, i musicisti di Napoli, i Pennato, i Gragnaniello, i Vigoli di Napoli, fino ad arrivare a incontrare i briganti e incontrare un fantasma che gli racconterà delle storie, con la partecipazione di Haber, che ci racconta un monologo insomma abbastanza intenso. E va bene, Costabi, che è uno che vende quadri in un modo forsennato, cioè lui è ossessionato e lo dichiara anche di essere molto ricco, cosa abbastanza rara, insomma, la prima cosa che dice quando si presenta, dice: sono molto ricco, ed è vero, tra l'altro è anche vero, e lui c'ha questa ossessione, c'ha questa grande autoironia, per cui io l'ho messo a vendere quadri porta a porta, cosa che fa realmente, quindi gira e va a finire a casa di Pietro degli Esposti, a casa del povero Remo Remotti, che purtroppo non c'è più, che ci lascia una testimonianza e un saluto, devo dire, emozionante. E insomma, Hakalim, che nella sua produzione diciamo che è molto presente la guerra, le navi, le bombe, i carri armati, gli aerei, lui confessa che il suo sogno è quello di dipingere una donna nuda, e quando vede una donna bellissima al Caffè Greco di Roma, che è Luisa Ranieri, comincia a seguirla senza nessun progetto, e infatti quando poi arriva nell'estrema periferia gira i tacchi, torna indietro e va bene, e poi scopriamo che una sua immaginazione, una sua opera, vabbè, il tutto con questi due personaggi, che uno indegnamente da me, diciamo, interpretato, un altro da Marco Tornese, che sono appunto questi Totò e Peppino, che sono questi due produttori, un po' la sintesi di tutti i produttori che abbiamo conosciuto nella nostra vita, e ce ne abbiamo di tutti i colori e le forme, e per cui accompagnato da questo assistente che non solo non prende la paga ma anticipa lui le spese, e quindi il film poi è girato a Cannes, è girato a New York, è girato a Varsavia, a Wroclaw, insomma c'è una partecipazione di Jerzy Sztur, questo grande attore, regista polacco, che interpreta il direttore dei programmi della televisione polacca, e a cui noi ci rivolgiamo per un suo intervento economico, e lui confessa che al di là di tutti i nomi importanti che noi gli proponiamo, quello che lui vorrebbe vedere è questa Serena Dream, che è una attricetta che faceva tanti anni fa dei film erotici, e che di cui lui ha un ricordo ben chiaro, e devo dire che questa cosa l'ha interpretata in modo straordinariamente poetico e divertente Serena Grandi, che si è prestata coraggiosamente a fare questo personaggio, anche perché la sua serenità glielo consente, e quindi con molto spirito insomma è salita su a Varsavia a fare questo incontro con questo signore, questo grande attore che quando la vede sicuramente un po' diversa da quello che è sulle locandine dei film, non si capisce se riesce, se probabilmente è innamorato lo stesso. C'è una scena tra loro molto divertente. Insomma, abbiamo poi Nino Frassica, che fa un altro personaggio, fa un meccanico, insomma abbiamo un cast abbastanza nutrito, abbiamo Sebastiano Somma, me li dimentico sempre perché sono veramente molti. Sì, sono molti, Se tu hai una locandina sotto mano tutti. Senti, vabbè. Bruno, che uscita sarà oggi? Allora, oggi noi usciamo in tutta Italia, nelle capozzone, usciamo a Milano, a Torino, a Bologna, in Toscana, a Foggia, a Bari, a Catania, a Napoli, a Roma. A Napoli siamo in tre sale, al Metropolitan di Napoli, all'America e al Med, e a Roma siamo al Fiamma e siamo al Parco dei Medici, e dalla prossima settimana anche al Madison. Poi si spera che ci saranno, diciamo, delle altre entrate. C'è Lina Sastri, che l'ho nominata nel film, spero di aver nominato tutti, perché poi c'è una partecipazione dei musicisti napoletani, che sono Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, Tony Esposito, Pietra Montecorvino, Enzo Gragnaniello, che fa un personaggio molto divertente sui quartieri spagnoli, sì, che cerca di nascondere la violenza dei quartieri spagnoli, e mentre sta decantando la serenità e la poesia di questi posti c'è una sparatoria in atto davanti al suo ospite, che è Torsten Kirko. C'è Nicola Morelli, un cantante diciamo che è straordinario, che io ho utilizzato spesso nei miei spettacoli teatrali, con una voce assolutamente femminile, sorprendente su invece su un volto molto maschile, insomma personaggi estremi come estrema Napoli. Senti, in chiusura ci lasci anche i riferimenti web per saperne di più su My Italy? I riferimenti web, sì, c'è la pagina Facebook, basta collegarsi alla pagina Facebook di My Italy, pagina di My Italy, che è molto aggiornata continuamente delle notizie e delle cose. Ho nominato anche Eugenio Bennato, sì, spero perfetto di non aver dimenticato nessuno. Veramente sono parecchie. Bene, Bruno, allora un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Io volevo dire questo, volevo aggiungere questo, che è un film molto divertente. Questa cosa l'abbiamo scoperta ancora di più nelle sale, perché le reazioni che ci sono state sono da film di Natale, anche se l'argomento, diciamo, è un po' particolare. Quindi è un film molto divertente. Questo volevo dire. Bene, bene. Comunicare. Allora, Bruno, ciao e alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bruno Colella, regista del film My Italy, in uscita in sala oggi giovedì 18 maggio. In collegamento con Vincenzo Alfieri, regista del film I Peggiori, anch'esso in uscita in sala oggi giovedì 18 maggio. Vincenzo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Raccontiamolo un po'. cinema. Sì. Raccontiamolo un po' brevemente questo Peggiori, Vincenzo. Brevemente, diciamo, appunto la storia di questi due fratelli, io e il guanciale, che si trovano a dover trovare i soldi per mantenere la propria sorellina di 13 anni. Al fratello grande viene in mente di fare un furto, perché sono completamente squattrinati. E visto che lui lavora in un cantiere dove non lo pagano da diversi mesi, lui dice: se io mi riprendo i soldi che sono miei, non è un furto, è come fare un bancomat, solo che invece di usare una carta uso una mazza. Solo che invece di trovare i soldi trovano dei passaporti che sono probabilmente trattenuti con intenti di sfruttamento da parte del suo datore di lavoro. Arriva la polizia, scoppia un casino, e il giorno dopo sui social si parla di questi due giustizieri mascherati che hanno voluto farsi giustizia da soli, in realtà loro erano andati solo per i soldi, e questo equivoco le rende degli eroi per caso, e quindi loro decidono di farsi pagare per sputtanare le persone. Senti, come... Sì, come viene fuori questa idea? È nata tanti anni fa, quando ero al liceo, che io sono collezionista di film e di fumetti, e ho sempre avuto l'esigenza di creare un eroe, non un supereroe, una persona senza poteri ma con delle sue capacità, che però fosse realistico, no? Che prendesse un sacco di botte, che avesse dei problemi nella vita di tutti i giorni, e ho sempre amato un certo tipo di commedia, un certo tipo di film action, ho sempre amato i mix di genere, e quindi piano piano nel corso del tempo sono arrivato a fare questa piccola follia. Senti, per la scrittura del film, dove avete guardato? Io ho scritto il film, giusto per ricordare, con Raffaele Verzillo, Renato Sagno, Giorgio Caruso, Alessandro Romadio, che è il regista di Orecchie, anche che anche oggi esce a Cinema Alta Commedia, molto bella. L'abbiamo sentito prima, sì. Ok. L'idea, abbiamo preso spunto da vari film, sicuramente partiva tutto da una mia esigenza personale di descrivere un rapporto familiare e un eroe alla Batman, appunto. Dopodiché ci sono tanti film come c'è una vecchia serie degli anni 80-90 che era come si chiama, l'altro super maxi eroe, che era questo idiota che non riusciva neanche a volare, ci prendeva un sacco di botte. Poi c'è stato Kick-Ass, insomma vari, diciamo, per la coppia dei due fratelli ho guardato molto alle coppie, all'Arma Letale, alla Starchiaccia. Un bel po' di film che mi hanno influenzato. E invece poi in scena con Lino sono cambiate un po' le cose rispetto alla scrittura, cosa si è sviluppato? No, in realtà io non c'è molta improvvisazione, perché okay, tengo molto alla sceneggiatura. Sì. Per me è molto importante che non si vada fuori da quello che è stato pensato per tanto tempo prima di arrivare sul set. Sicuramente poi gli attori ci mettono il loro, no? Certo. Lino con la sua verve ha poi dato vita a un personaggio che era sicuramente già su carta, ma lui con la sua personalità l'ha reso vero, mettiamolo così. Tra l'altro è stato, pensa, noi abbiamo anche un programma, una trasmissione di radioteatro, e Lino è stato tra i primi ad essere qui in studio con ha fatto un reading delle poesie di Sanguinetti qui in radio qualche anno fa, insomma, quindi lo seguiamo da parecchio tempo. Ma lui sono veramente tanti anni che lavora, quindi sì, ha fatto tantissime cose, un professionista, veramente è stata una fortuna lavorare con lui, siamo trovati molto molto bene. Senti, per l'uscita com'è stata pensata l'uscita? In che senso? Quante copie, come, con quali modalità, insomma? No, questo vorresti parlare con la Warner, nel senso che sai, sono più logiche commerciali. Sì, esce in 250 copie. La signora uscita. In Italia, che è una signora uscita per un'opera prima, perché dopo, già quando la Warner ha visto il film la prima volta era molto molto contenta, poi abbiamo avuto una bella conferma all'anteprima del Comic Con, e dove c'è stato a Napoli una bellissima risposta del pubblico, quindi hanno pensato appunto di puntare sul film, e per quanto riguarda le strategie e queste cose qua, ovviamente io non ti so rispondere, però devo essere sincero, da regista, quindi da papà di questo piccolo bambino che è nato oggi, vediamo che succede, hanno fatto tante cose bellissime, soprattutto su internet, le pagine social sono gestite molto molto bene, stanno facendo una bella campagna. Senti, come li hai convinti? A partire proprio dalla sceneggiatura? Sì, beh, 3 anni fa quasi, ci ho messo un po' a convincere la Lucisano, vabbè. Io ho lavorato tanto prima di fare il film, ho continuato a lavorare nei 2 anni e mezzo che aspettavo che mi facessero fare il film, e la produttrice mi è stata molto vicina in questo, ha amato da subito l'idea, mi piaceva il mio lavoro, insomma col tempo l'abbiamo però costruito insieme, sia per esigenze produttive che anche artistiche. Bene Vincenzo, allora da oggi nelle sale, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, mi raccomando, tutti al cinema. Ciao. Grazie. Ciao. Vincenzo Alfieri, regista del film I Peggiori, in uscita in sala oggi giovedì 18 maggio. Torniamo a parlare di documentari con un gran bel lavoro molto interessante. Ne parliamo con Antonio Sanna, che ne è co-regista. Il titolo è Senza passare dal via. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovati e grazie per averci invitato alla vostra trasmissione. Dico subito che il mio coautore è Umberto Sciotto, che ci ascolta e che saluto. Benissimo. Allora, industrializzazione del centro della Sardegna, una vicenda che ha molti tratti che l'accomuna a vicende analoghe in varie epoche, in varie parti del paese, è piuttosto emblematica. Ce la racconti un po' in breve? Sì, emblematica perché comunque l'industrializzazione di Ottana nasce su richiesta della classe politica di allora, che erano giovani democristiani che si facevano chiamare Gian Burrasca all'inizio e poi Forze Nuove dopo, che chiedono di fare parte di un processo industriale che è stato avviato in Sardegna verso l'inizio degli anni 60 con l'arrivo della raffineria della Sara, di Moratti, al sud appunto, e poi al nord l'arrivo invece del discusso ingegnere Nino Rovelli, che impianta una raffineria e poi una serie di processi di lavorazione legati alla chimica di base. Ma questo processo di lavorazione, questo processo industriale era ovviamente inserito in un discorso più ampio che riguardava poi varie parti del paese, tra cui Pisticci, Marghera, Milano, cioè la zona della Lombardia, eccetera. Quindi non era un contesto slegato, anche perché la chimica era strategica in quel periodo e quindi bisognava ripartire le varie zone. Ottana fu scelta per questo. C'è da dire in più che nell'immediato dopoguerra, nel tentativo di risolvere il grave stato di arretratezza della Sardegna, si decide di avviare la programmazione finanziando un piano di investimenti straordinario che verrà chiamato il piano di rinascita e che sarà quello che poi darà via appunto al processo di industrializzazione. A questo punto si formano due poli importanti, come dicevamo prima, quindi Macchiareddu, Porto Torres e quindi la Sardegna centrale, che ha gravi problemi di banditismo, di disoccupazione, di immigrazione, chiede a gran forza di avere un intervento industriale. In quel momento è la chimica che è in grande ascesa e quindi si decide di fare una fabbrica che sia baricentrica per tutta una serie di territori, esattamente per ben 52 paesi, città, Nuoro compresa, che quindi possa dare delle risposte un po' a tutti in termini di occupazione. Questo è l'origine di Ottana, che non era mai stata raccontata, non era mai stata raccontata così come viene raccontata in questo film, con interviste a coloro i quali decisero anche esattamente l'ubicazione, cioè proposero l'ubicazione, cioè dove installare una fabbrica petrolchimica al centro di un'isola, quindi lontano parecchi chilometri dai porti e dal mare, che solitamente invece è il luogo ideale per ospitare questo tipo di impianti, visto che si ha a che fare col petrolio. Questa è la storia. Sì, no, dicevo emblematica perché i responsabili dell'industria hanno fatto come in altri periodi, in altri luoghi: prendi i soldi, inquina e scappa. Un po' questo è successo in maniera piuttosto evidente nel centro della Sardegna, no? Sì, sì, questo è successo nel centro della Sardegna, ma succede ancora oggi, perché è notizia di due giorni fa, ma sono stati arrestati i vertici di un'azienda che si occupa di fluoro, sempre a Macchiareddu, tramite intercettazioni ambientali si è venuto a sapere che questi, praticamente, invece di risolvere i problemi di smaltimento delle loro scorie, le seppellivano tranquillamente, ne facevano altro uso che quello invece previsto dalla legge. Quindi sì, questo dell'inquinamento è uno degli aspetti che diciamo così, che è quello che è rimasto sul territorio adesso, però in realtà un aspetto importante di questa vicenda è stato invece proprio l'imporre un sistema che aveva nelle intenzioni di chi lo propose come obiettivo quello di catapultare una struttura sociale che proveniva da una cultura millenaria e che doveva essere cambiato perché non era più accettabile. E quindi la famosa catastrofe antropologica, che secondo tanti non c'è stata, secondo molti invece sì, e che invece comunque ha lasciato molte ferite sul terreno, oltre alle questioni che dicevi tu, ecco, alle questioni ambientali che ancora sono da indagare. Se pensate che nel 2016 è stata finalmente, perché la questione, lo dice una delle nostre intervistate, dice si è parlato per 25 anni di inquinamento ambientale e non si è mai fatto niente, anzi lei addirittura, questa professoressa della scuola media che organizzò un dibattito con i suoi ragazzi, quindi con i suoi studenti, e organizzò una ricerca e poi un dibattito per capire esattamente che cosa voleva dire avere una fabbrica chimica nel territorio, e veniva minacciata a casa sua telefonicamente. Lei ci dice nell'intervista, e noi lo riportiamo giustamente, veniva minacciata dal direttivo della fabbrica. E stiamo parlando di Eni, non stiamo parlando di piccoli imprenditori, ecco, quindi insomma. Sì, poi tra l'altro, vabbè, i soldi a cui facevo riferimento sono quelli dei finanziamenti statali, e che poi si sono rivelati a fondo perduto perché non sono mai rientrati di quegli investimenti, e l'inquinamento ambientale a cui facevo riferimento è anche nel titolo, valutazione di impatto ambientale a cui fa riferimento quel via nel titolo. Sì, il via naturalmente va chiarito che quando nasce Ottana la procedura di valutazione di impatto ambientale non era ancora in vigore. Certo. In realtà le precauzioni ambientali che furono prese al periodo riguardavano la depurazione delle acque di scarico. Lei si premurò di portare i sindaci, per esempio a Ingolstadt in Germania, e i sindaci bevvero l'acqua che usciva dal depuratore dopo che l'aveva fatto il direttore, naturalmente. Poi fu costruita una ciminiera più alta del previsto, proprio per portare più lontano possibile i fumi che però risultano dalla centrale termoelettrica. Quello che non è mai stato preso in considerazione era invece l'esalazione dei vapori o dei residuati, non saprei neanche dirvi, che invece venivano dalla produzione dell'acido tereftalico, e questo aspetto non è mai stato indagato seriamente, perché ad Ottana sono morti molti bambini di leucemia, e non solo bambini, ed era impossibile vivere, cioè respirare, perché comunque dovevi stare con le finestre chiuse perché la puzza era insopportabile. Se considerate che la fabbrica dista in linea d'aria a massimo 2 km dal paese, quindi potete immaginare che cosa ha vissuto questo piccolo centro, che in quel periodo era avvolto nella miseria più totale, che comunque non ha mai avuto un vero sviluppo. Ecco, tornando e restando sull'oggi, Antonio, volevo chiederti che ne ha intanto ad oggi della riqualificazione ambientale e poi la questione occupazionale oggi? Beh, dunque, la questione ambientale, appunto, dicevo prima, è stata aperta un'indagine perché l'Associazione Italiana Esposti Amianto ha presentato una serie di esposti in procura che hanno costretto finalmente la procura ad aprire due tronconi di indagine, uno affidato al NOE e uno al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna. Quindi c'è stato il sequestro di un'area di 5 ettari che però per il momento nessuno ha toccato perché c'è una guaina protettiva o non c'è, questo non si sa, per cui nessuno si prende la responsabilità di scavare, sono 5 ettari, però non è chiaro ancora bene che cosa ci sia dentro, perché si diceva che in procura queste cose l'hanno confermata non ufficialmente, ma si parlava anche di rifiuti che provenivano invece da fuori, la Sardegna, e poi venivano seppelliti. E questa non è una novità, perché un anno fa a Porto Verme, un anno forse anche di più, a Porto Verme fu bloccato un camion che trasportava ancora rifiuti radioattivi che venivano portati nella fabbrica di Porto Verme, che sta a sud-ovest della Sardegna, e non si sa bene per farne che cosa. Quindi questa della questione ambientale è ancora aperta. Sì. La questione è terribile, purtroppo, è che il titolare dell'indagine è stato trasferito ed era uno che aveva veramente una grande volontà. Il procuratore capo, che invece ha dato il via all'inchiesta, anche lui andrà via fra un po', e quindi già loro stessi avevano risposto alla mia domanda precisa su come sarebbe andata a finire questa indagine, e compreso anche il maresciallo da Corre Salenti, tutti e tre avevano risposto abbastanza sconsolatamente che sarà difficile che si arrivi alla fine di qualcosa. Nonostante, ecco, questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto delle bonifiche che ancora va fatto, e che devi sapere, chi è andato via da Ottana, tutte le varie società che si sono succedute nel tempo hanno sempre lasciato i denari delle bonifiche, quindi questi denari sono lì ma non si sa come spenderli, perché nessuno si prende esattamente la briga. Questo, c'è l'indagine, e poi c'è l'aspetto legato invece alla presenza. Questa è una cosa abbastanza inquietante, è che nonostante l'impianto di Ottana sia gemello di quello di Pisticci, Basilicata, dove i lavoratori hanno avuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto da subito, qui ad Ottana questo è stato negato. Ma perché? Perché nel momento in cui l'INAIL manda la sua commissione per valutare questo, spariscono i dati relativi alla presenza di amianto, e quindi l'INAIL, da parte sua, si è limitata a fare quello che doveva fare, cioè l'amianto non ce n'è, non vi riconosciamo l'esposizione. Quindi da 25 anni e più questi operai, molte delle loro vedove stanno, hanno aperto una battaglia che una vertenza che è esplosa abbastanza prepotentemente nel 2016, proprio per avere riconosciuto questa procedura. C'è qualcosa che si muove da parte della regione, si aspetta, però nel frattempo la punta massima di malattie generate proprio dall'esposizione all'amianto si aspetta in questi anni. Sì, non è ancora. Sì. Sì. E dal punto di vista occupazionale che succede? Succede che ormai i lavoratori sono stanchi. Io mi sono occupato di Ottana per 25 anni, infatti uno dei motivi per cui ho iniziato a lavorare a questo film è stato proprio quello, capire come mai questo colosso, questa cosa enorme, questa astronave calata nel centro della Sardegna non abbia mai funzionato. E quindi sostanzialmente i lavoratori sono stanchi, hanno fatto tantissime battaglie, hanno fatto delle cose veramente grandi. È una classe di lavoratori, una classe operaia che era temuta in Italia all'inizio. Poi piano piano è andata scemando, perché molti di questi lavoratori hanno fatto anche 20 anni di cassa integrazione, mobilità, eccetera, eccetera. Quindi alla fine sono rimasti 200 lavoratori, ma non so, 300, non di più, perché ci sono varie realtà che aprono e chiudono, e questi, cioè Ottana Polimeri, l'ultima grande realtà che è proprietà di una multinazionale thailandese, è chiusa da 3 anni, i lavoratori sono in cassa integrazione. Ieri è venuta fuori la notizia che la società proprietaria della centrale, che è una municipalizzata di Bolzano ha intenzione di prendere le sue quote, quindi chiude pure la centrale che nel frattempo non aveva più avuto le essenzialità. Quindi diciamo che sul fronte occupazionale la storia riottana volge purtroppo, secondo me, al termine, ma dico purtroppo nel senso che ci sono questi lavoratori che non hanno una prospettiva. Certo. Questo è il punto vero, cioè la sostanza di tutto è questa, che è uscito, è emerso abbastanza prepotentemente nel corso dei vari dibattiti che abbiamo fatto in giro per l'isola, ma anche per la, siamo stati anche a Roma e saremo anche a Firenze sempre. È emerso questo, che mi sono perso. Mi sono perso perché spari per le mie. Non ti preoccupare, però la cosa che mi premeva, Antonio, è rispetto a questo documentario su internet, dove si può cercare per avere informazioni su proiezioni e su vostri spostamenti? Questa è una questione importante che noi dovremmo seguire di più. Sì. Il problema è che io questo film l'ho fatto con la mia disoccupazione. Quindi l'ho fatto, è un film totalmente autoprodotto, salvo un piccolo contributo dell'Istituto Etnografico e ovviamente la preziosa collaborazione della società umanitaria Cineteca Sarda di Cagliari, che ci ha messo a disposizione intanto le sue competenze, il suo sostegno e poi le immagini che d'archivio che conserva gelosamente. Quindi ci siamo seguendo intanto ogni presentazione del film, noi siamo sempre presenti perché vogliamo che il film contribuisca a comprendere, certo, quelli che sono stati gli errori del passato, perché penso che succeda un po' ovunque, ma a Porto Torres si è proposto di fare la chimica verde, era venuta fuori la proposta di fare non so quanti centinaia e centinaia di ettari di cardo che avrebbero dovuto alimentare questa centrale, poi la cosa non è andata a buon fine, adesso ce la stanno proponendo qui a noi nel centro Sardegna, ma non ci sono soldi, non c'è volontà, non c'è un progetto politico, e quindi dicevo alla fine seguiamo il film, ci stiamo buttando alla preparazione dell'altro lavoro che invece riguarderà più in generale la Sardegna che non funziona perché. E quindi diciamo che non abbiamo un grande staff che ci segua le questioni, diciamo, social o web, però ci piacerebbe, magari facciamo una pagina. Anche perché se la fate mi fai sapere, avrò modo poi di promuovere il Certo. Dalla trasmissione. Allora, Antonio, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e facciamo a presto. Viva il lupo e ti ringraziamo noi per averci ospitato. Grazie, grazie e buon lavoro. Speriamo a presto, dai. Ciao Antonio. Ciao. Antonio Sanna, per quanto riguarda il documentario Senza passare dal via, di cui è coregista e di cui speriamo di sapere presto notizie via web. È tutto per Visionari di questa settimana, torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta e sempre sull'home page trovate anche le informazioni relative alla scaletta della trasmissione e sulla trasmissione stessa, sulla colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.